È normale che ogni persona religiosa ritenga giusta la fede che professa, se non fosse così, cambierebbe religione. Perciò è normale per un cristiano affermare con convinzione che il cristianesimo è la sola fede giusta. Eppure, in ogni religione vi è il concetto di una divinità da ubbidire, adorare e servire. Così, in un certo senso, tutte le religioni sono uguali. Vi è però un particolare da aggiungere. Il cristiano sostiene che il cristianesimo è unico, esclusivo, nel senso che il cristianesimo propone verità non riscontrabili in nessun'altra religione. Ma un conto è affermarlo e un altro è spiegare le ragioni dell'unicità del cristianesimo. Mi propongo quindi di tracciare alcuni elementi del cristianesimo nettamente distintivi da ogni altra fede, per arrivare a concludere che la fede cristiana non è una fede creata dagli uomini, ma una rivelazione provenuta direttamente da Gesù Cristo, la persona divina fondamento della fede dei cristiani. Il primo elemento di unicità del cristianesimo riguarda un aspetto umano senza paragoni nella storia delle religioni, la nascita di Gesù Cristo da una giovane vergine. Per comprendere questo aspetto della fede cristiana occorre fare un passo indietro a 700 anni prima della nascita di Gesù. Leggiamo nel libro del profeta Isaia le seguenti parole. Allora Isaia disse: «Ascoltate ora, o casa di Davide, e forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini, che volete stancare anche il mio Dio. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. Egli porrà nome Emanuele». Isaia 7:13-14. I cristiani sono grati al loro Dio perché queste parole sono state scritte 7 secoli prima dell'inizio della nostra era, perciò tale profezia ha maggior valore. Da sempre gli esseri umani sapevano che un figlio nasce esclusivamente da una relazione sessuale tra un uomo e una donna. Da sempre gli esseri umani sapevano che dopo una relazione sessuale la donna non era più vergine. Con queste premesse, com'era possibile preannunciare che una donna vergine avrebbe partorito un figlio? Poteva una vergine concepire un figlio? Eppure Maria, secondo i racconti dei Vangeli, concepì e partorì Gesù Cristo quando ancora era vergine. Forse con la tecnologia a nostra disposizione oggi questo potrebbe anche succedere. Ma questo avvenimento, dichiarato in un'epoca nella quale era impossibile avere figli diversamente dal modo consueto, rende la fede cristiana esclusiva, testimoniando che la fede ebreo-cristiana è unica in tutti i sensi a livello razionale. Chi pone in Cristo una fede salvifica non è come chi abbraccia il buddismo, l'islam o qualsiasi altra religione, perché in definitiva queste religioni hanno come proprie figure leader degli esseri umani concepiti e partoriti come tutti gli altri. Ma credere in Cristo è più che credere a un fondatore come alternativa ad un altro. Ma si tratta di porre fede in un uomo che è stato concepito e partorito fuori da ogni norma e regola. Gli scettici devono prendere sul serio questo aspetto del cristianesimo, perché se una religione vale l'altra, perché allora non credere che Gesù è stato concepito da Dio stesso? Com'è possibile continuare a sostenere che Gesù Cristo si paragona ai fondatori di altre religioni? Se anche i suoi insegnamenti fossero simili agli altri fondatori di religioni, menilché non è assolutamente possibile. Nessuno di essi è nato da una vergine. Tra gli esseri umani, Gesù non si confronta con gli altri, ma si contrappone a loro. Egli è unico. Unico come Dio è unico. Un secondo elemento che rende il cristianesimo non paragonabile a nessun'altra religione è la resurrezione di Cristo. Si sa che se si vuole indirizzare le persone a credere in modo particolare, una cosa, questa deve essere unica ma credibile. Il cristianesimo, come ogni religione, ha le sue particolarità e per questo non sarebbe unico se non fosse per un qualcosa in più. Reca un messaggio non credibile. Come non è credibile che una vergine rimanga incinta, così, molto di più, non è credibile che un morto risorga. Proprio per questo, nessuna religione propone la resurrezione dalla morte del proprio fondatore, essendo ovvio che nessuno sarebbe disposto a crederci. Eppure, I cristiani, pur conoscendone l'assurdità razionale, hanno osato proporre al mondo il messaggio di «Uomo risorto dalla tomba dopo 3 giorni». Non solo. Per questo messaggio essi sono anche morti, soffrendo atroci sofferenze. Da un certo punto di vista niente di speciale, perché molti religiosi per la loro fede si sono sacrificati, ma gli apostoli avevano un altro particolare distintivo. Non avevano posto una fede cieca in ciò che era stato loro trasmesso come i credenti delle altre religioni, ma hanno testimoniato al mondo ciò che i loro occhi avevano visto e le loro orecchie avevano udito personalmente, senza poterlo rinnegare neppure di fronte alla morte. Essi sostenevano di aver visto Gesù Cristo risorto e testimoniavano che lui era il figlio di Dio, il re dei re. Oggi una persona sana di mente e logica sa che un morto non può risuscitare, perciò non è disposto a porre fede nel cristianesimo, a meno che non creda che Gesù sia Dio. Se Cristo Gesù è Dio, allora anche la resurrezione ha senso. Questo rende il cristianesimo unico. In una società cristiana come quella occidentale è difficile trovare persone che neghino la resurrezione di Gesù, ma di fronte ad un morto non ho ancora sentito qualcuno sostenere con convinzione che un giorno risusciterà. Questo porta a pensare che in genere gli uomini hanno un concetto puramente intellettuale del cristianesimo e non vivendolo neppure riescono a crederne le dottrine fondamentali. Il cristianesimo è dunque unico anche perché non richiede solo una adesione mentale, sufficiente invece per le altre religioni, ma è adesione nella vita pratica. Se un musulmano non crede che Maometto ha avuto molte mogli ed è morto a 64 anni, nulla cambia nel suo destino eterno, ma chi non crede a tutta la vita di Gesù, e soprattutto che sia risorto dai morti, non può accedere alla beatitudine eterna e non può essere un cristiano. Il cristiano è colui che accetta per vera ogni parola e ogni azione di Gesù. Anche in questo il cristianesimo è unico. Un terzo elemento rende inoltre il cristianesimo non credibile, pur essendo professato dai cristiani, con forza. La santità o la perfezione di Cristo. La fede degli ebrei è sempre stata in una divinità, non solo eccelsa e potente, ma anche perfetta nella santità. Poiché così dice il Signore l'Eterno, il Santo d'Israele, nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati, nella calma e nella fiducia. Sarà la vostra forza. Isaia 30, 15. Dobbiamo riconoscere che questo aspetto non sia peculiare soltanto al cristianesimo, perché anche alcune divinità degli altri popoli sono perfette. Ma a rendere particolare la fede cristiana è che Gesù Cristo, un uomo giudeo vissuto 2000 anni fa, è il Santo di Israele. È indiscutibile che nessun uomo non sia e non possa essere perfetto nel parlare e nella condotta, eppure i cristiani credono e professano che Gesù Cristo è il Santo di Israele, testimonianza questa, proveniente anche dai suoi nemici e oppositori. Tanto è vero che nel processo a suo carico si è giudicato l'identità dell'accusato e non le sue azioni. Pilato stesso, dopo averlo esaminato, non trovò in lui colpa alcuna, ma lo consegnò ugualmente ai capi religiosi, perché fosse condannato a morte mediante la crocifissione. Inoltre anche il Corano attesta che Gesù non ha mai commesso un peccato. Mentre Maometto ha chiesto perdono ad Allah 3 volte, quando faccio presente ai musulmani che un uomo non può essere perfetto a meno che non sia Dio, si trovano grandemente impacciati. Una fede che cerchi di essere creduta non presenta appoggi così assurdi dal lato umano. O Gesù Cristo era, è e sarà per sempre sia uomo sia Dio, oppure il cristianesimo è pieno delle fantasie più stravaganti. Ma per quanto se ne dica, Gesù ha dimostrato di essere Dio molte volte e in molte maniere, se si manca nel comprenderlo è a causa di un'insufficiente conoscenza della cultura ebraica. Nessun più giudeo avrebbe, mai e per nessuna ragione, adorato un uomo. Eppure Gesù è stato adorato non solo dagli uomini, ma perfino dagli angeli. Così nessun più giudeo avrebbe mai, per nessun motivo, rivolto preghiere ad un uomo. Eppure Gesù è stato ed è oggetto di invocazione. Ma la prova più evidente della divinità di Gesù è la sua morte. Egli è l'unico essere umano condannato a morte per aver sostenuto di essere Yahweh, cioè il Dio che si è rivelato agli ebrei. Uno può sostenere di essere Dio come hanno fatto certi squilibrati, ma nessuno ha detto di essere colui che ha parlato con Abramo e con Mosè. Questa è la ragione per la quale Gesù è l'unico essere umano a non aver commesso errore di qualsiasi genere. Un quarto elemento, non trascurabile, dell'unicità del cristianesimo sono le profezie contenute nella parola di Dio. È stato detto che se uno potesse sapere con 5 minuti di anticipo le cose che stanno per succedere, in meno di 2 settimane giungerebbe a dominare il mondo. La Bibbia miracolosamente preannuncia centinaia di eventi. In molti casi le profezie precedettero il loro adempimento di centinaia e talvolta migliaia di anni. Alcune profezie si riferivano a città o paesi come Tiro, Gerico, Samaria, Gerusalemme, la Palestina, Moab e Babilonia. Altre profezie riguardano persone in particolare. Nell'Antico Testamento Gesù Cristo è l'oggetto di oltre 300 profezie. La sua nascita, avvenuta circa 2000 anni fa, e gli eventi della sua vita furono preannunziati da diversi profeti in un periodo di 1500 anni. È una conferma, al di là di ogni dubbio, che Gesù di Nazareth è il vero Messia, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Che un libro sacro contenga delle profezie non è un'esclusività del cristianesimo, ma l'unicità della fede cristiana sta nel fatto che perfino il minimo particolare della vita di Gesù si è verificato nel modo preciso predetto. Di Gesù era stata preannunciata la nascita virginale, il luogo di nascita, la sua infanzia, il suo ministero, il suo insegnamento, il suo tradimento, la sua crocifissione, la sua morte, la sua sepoltura, la sua resurrezione. Tutti questi elementi, messi insieme, non possono passare inosservati. Non si tratta di una profezia, ma della cronaca anticipata della sua vita. Questo aspetto dovrebbe far riflettere anche il più scettico, perché se ciò che è scritto si è avverato, dimostra una garanzia della concreta realizzazione delle cose future predette. E, essendosi attuati sia gli aspetti positivi sia negativi, è sicuro che in futuro, secondo la parola di Dio, si effettuerà anche il giudizio di Dio tramite Gesù. Cristo, il quale caccerà nelle pene eterne coloro che non hanno posto fede in Lui per essere salvati, mentre invece chi per la fede in Cristo ha realizzato la nuova nascita entrerà nella sua gioia per sempre. Sfugge a molti che le profezie hanno anche questo scopo. Infatti, che senso ha leggere nella Bibbia centinaia di profezie avverate se queste oggi fossero per noi di nessuna utilità? Che senso ha leggere giudizi previsti su città come Babilonia o Tiro, e avveratisi puntualmente centinaia di anni fa? Lo esprime bene il profeta Isaia: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Isaia 55:10-11. Ciò che l'Eterno ha detto si avvererà sempre. Uniche sono le profezie di Dio, unica è la fede cristiana. Un quinto elemento, senza ombra di dubbio, determina in tutti i sensi l'unicità della fede cristiana: la fede in un Dio trino. Per molti questo aspetto non costituisce più una novità, essendo un elemento della fede cristiana predicato da 2000 anni. E si sa, qualsiasi cosa, anche straordinaria, quando è nota non stupisce più di tanto. Ci sono persone che fanno sacrifici percorrendo chilometri e chilometri per vedere paesaggi o costumi di altri popoli, i quali non vi fanno neppure più caso, essendo per loro nell'ordinarietà delle cose. Così è della fede in un Dio trino. Per comprenderne l'unicità nella sua originalità, occorre tenere presente che questa fede scaturisce da un popolo di fede monoteista, la cui tradizione millenaria detta che la divinità è spirito e non può assolutamente avere un corpo umano. Ebbene, il cristianesimo, benché fonda le sue radici nella fede ebraica monoteistica e assoluta, afferma sì l'opposto, ma per completarlo. Il cristianesimo afferma di credere in una sola divinità, nella quale tuttavia sussistono tre persone uguali ma distinte, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Dio della rivelazione biblica è Trino, altrimenti non esiste. Una simile fede è contraria ad ogni logica umana, non essendo afferrabile appieno, e neppure attraente, cosa che fa ancora di più del cristianesimo una fede unica e non umana. Nessuno desideroso di avere degli adepti cercherà di proporre dottrine su Dio incomprensibili, artificiose, enigmatiche e irraggiungibili dal punto di vista intellettuale. Eppure, proprio perché la religione cristiana non è una fede creata dagli uomini, essa contiene aspetti da non poter essere definiti diversamente se non divini. È vero che tutte le religioni hanno una divinità loro oscura al di sopra della comprensione umana, ma è peculiarità unica del cristianesimo definire i limiti della deità, asserendo, ad esempio, che Dio è uno ma pluripersonale a causa dell'insita sussistenza di tre persone distinte, nonostante il cristiano ammetta l'incomprensibilità di tale verità per la razionalità umana. È vero che alcuni negano che Gesù sia Dio perché aveva i limiti di ogni uomo, dimenticando però che Gesù è il Figlio di Dio che si è fatto carne, assumendo di conseguenza le limitatezze di tale condizione, cambiando la sua sovranità in servitù e sottoponendosi al Padre nell'ambito delle funzioni e delle attività. Ma in quanto alla propria natura, Gesù è partecipe a quella divina del Padre e dello Spirito Santo. Un sesto elemento rende il cristianesimo unico, è il messaggio che non tutti gli uomini moriranno. Il minimo che possa fare chi ascolta questa verità è una bella e sonora risata perché tutti sanno che prima o poi ritorneremo polvere, realtà questa dichiarata anche dalla parola di Dio. E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio. Ebi 9:27. Del resto, fa parte della creazione vedere un inizio e una fine, ossia la nascita e la morte di ogni cosa, compreso l'uomo. Eppure, uno dei messaggi dell'Apostolo Paolo è che alcuni credenti non avrebbero gustata la morte. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati. 1 Co. 1:55-1:52. In questo messaggio di Paolo sono contenute due verità indivisibili, o si accettano entrambe o niente. Che alcuni uomini non moriranno è dato dal fatto che Gesù ritornerà dal cielo per rapire chi ha posto fede in Lui, sia i morti, sia i viventi. Perciò non accettare che alcuni credenti non moriranno significa rifiutare automaticamente il ritorno di Cristo, così come non credendo al ritorno di Cristo neppure si confida che alcune persone non moriranno. Ancora una volta prendiamo atto che la fede cristiana va presa nel suo insieme, non dichiarando di credere in Dio e in Cristo, e poi, come la maggioranza di persone, non credere alla resurrezione. Credere che Cristo sia Dio comporta anche il porre fede nella sua definitiva vittoria sulla morte ottenuta con la resurrezione, e che i credenti in Lui un giorno risusciteranno per stare per sempre alla sua presenza. E se un giorno tutti gli uomini risusciteranno, chi per godere la beatitudine eterna, chi per ricevere la condanna eterna, allora è anche vero che alcuni figli di Dio saranno mutati in un batter d'occhio senza passare per la morte. Nessuna religione ha un simile credo e neppure lo può avere perché rivendica la fede o in una divinità incomprensibile o in una divinità impotente a vincere la morte nei termini presentati dal cristianesimo. Un settimo elemento che rende la fede cristiana unica è che il Dio dei cristiani un giorno distruggerà la morte. Anche questo aspetto ha dell'incredibile perché tutto è soggetto al deterioramento e di conseguenza alla morte, eppure questa costituisce una delle più belle promesse. Oltre il profeta Isaia 25:8, anche l'apostolo Giovanni lo afferma e udì una gran voce dal cielo, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, e essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Atto 21, 3-4. Se non vi sarà la morte, significa che l'attuale ordine delle cose sarà totalmente diverso. Infatti, prima di scrivere queste cose, Giovanni aveva preannunciato che tutto ciò sarebbe avvenuto, in nuovi cieli e in una nuova terra, intendendo un rinnovamento in senso materiale che spazzerà via anche la morte e il dolore. È vero che altre religioni promettono una gioia eterna ai seguaci, ma nessuna di esse dichiara apertamente il totale e definitivo annientamento della morte, non escludendo quindi che nella gioia eterna essa sia ancora presente. Bisogna ripeterlo, la fede cristiana è veramente unica. Il cristianesimo si propone come una sfida, l'unica vera sfida. Mediante il profeta Abacuc, Yahweh, Dio dice, guardate fra le nazioni e osservate, siate stupefatti e sbalorditi, perché io compirò ai vostri giorni un'opera che voi non credereste, anche se ve la raccontassero. 1:5. È possibile credere che un bambino nasca da una vergine? È possibile che un morto risorga? È possibile ad una persona umana non commettere nessun errore? È possibile per un uomo essere l'adempimento di centinaia di profezie? È possibile credere ad una divinità che è una ma contemporaneamente tre persone distinte? È possibile credere che alcuni credenti non moriranno? Infine, è possibile che un giorno scompaia per sempre la morte? Non è possibile credere tutto ciò, a meno che Gesù Cristo sia Dio, il quale come tale non dipende dai rapporti umani, non può essere trattenuto dalla morte. È perfetto ed ha adempiuto ogni profezia, ma soprattutto egli è colui che ha rivelato l'unica divinità in tre persone. Questo uomo è Gesù Cristo. A noi non resta che credere a ciò che ci è stato raccontato. Per chi fa delle religioni di tutte le erbe un fascio, ritengo buona la valutazione che Chris Wright fa nel suo libro L'unicità di Gesù, Pag. 109-110. Alla fine la morte rivelerà la verità o la falsità di alcune o di tutte le dottrine religiose. Se alla morte siamo totalmente annullati, allora tutte le religioni che hanno come dottrina secondo la quale la salvezza implica una vita dopo la morte, si riveleranno false. Se torniamo a una nuova forma di vita reincarnata sulla terra non redenta, allora il cristianesimo si rivelerà falso. Se ci troviamo davanti a Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, come è descritto nella Bibbia, allora le altre religioni si dimostreranno false. In altre parole, la morte deve dimostrare senza dubbi la natura esclusiva della verità. In un sistema di dottrine divergenti, cioè mutualmente contraddittorie, aventi a che fare con la stessa realtà, è possibile che tutte le dottrine siano false, o che una sia vera, mentre tutte le altre false. Ciò che non è possibile è che siano vere tutte. Le domande a scelta multipla negli esami si basano proprio su questo principio fondamentale. Per esempio, posso affermare, la mia è accento grave, tia accento grave, è di 35, o 43, o 49, o 51, oppure 57 anni. Tutte le date possono essere false. Ma se è vera una data, non possono esserlo le altre. Ciò che è impossibile è che esse siano tutte simultaneamente vere. In conclusione, ogni conversazione in merito alla religione non può terminare con una porema, cioè quell'argomentazione che mira a dimostrare l'eguale valore di due conclusioni opposte tra loro. Novembre 2004, Ellero,